La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Allora, mi scrive Rosa, Rosa che è rimasta molto delusa da me, perché un ascoltatore mi aveva scritto che ero fisicamente identica alla matrigna di Cenerentola disegnata da Walt Disney, e quindi lei è rimasta molto delusa. Ma come lei, cioè io, la regina dello sberleffo, principessa della contestualizzazione, eccetera, se la prende così? Non trova una risposta differente, una corda diversa, un livello di discussione dissimile. L'esperienza di vita mi suggerisce che, come lei ben sa, prendersela così significa accusare il colpo, e questo non posso proprio accettarlo. Una Barbara Alberti che voli basso, accontentandosi di dirsi dispiaciuta e forse offesa, con immutata stima. La ringrazio, Rosa, della immutata stima. A me spiace averla delusa, però io ho detto ciò che sentivo, e nulla mi sembra più dignitoso che dire ciò che si sente. E non ho avuto nessun imbarazzo nell'ammettere il mio dispiacere e nel dimostrare che avevo accusato il colpo. Cioè, lei dice questa cosa come se fosse frutto della sua grande arguzia, ma guardi che l'argomento della mia risposta era proprio questo, che avevo accusato il colpo con tutta me stessa. E questo era il senso della risposta. Vede, Rosa, il grande lusso della mia vita è stato rifiutare il far finta di niente. Non è che per forza io debba schiacciare e beffare l'offensore. Anzi, lo stavo proprio avvertendo. Lo sai che mi stai facendo male? Lei, Rosa, immagina che io sia un'altra. Crede che io sia di quelli che vogliono vincere dialetticamente a tutti i costi. Lei mi prende per uno di quei combattenti di professione specializzati nel far sentire l'altro un cretino. Ma appunto, quello che lei spiega, le hai accusato il colpo, ma proprio questo diceva ogni mia parola, che ero rattristata e offesa. Ora lei, Rosa, mi ha scoperta. Sa che non sono Kill Bill, che non sono una che con la spada può togliere uno scalpo in un secondo. Sono una donna pensosa, col senso della giustizia, da quando avevo 5 anni. Lei dice, questo no, non posso proprio accettarlo. Ma io, Rosa, non sono responsabile dell'immagine che lei si è fatta di me e non ho il dovere di somigliarle. Per me l'orgoglio non è non ammettere che qualcuno mi abbia offeso, semmai nell'ammetterlo. Nello smascherare il gioco sociale di dirti una cosa atroce in guanti bianchi, così en passant, ma lasciando un cratere. Lei mi tratta come un gladiatore che ha mancato, che non ha fatto pezzi l'avversario. Ma io non sono il suo gladiatore, Rosa. Io non lo sono affatto. Ah, e poi, Rosa, farò una cosa ancora più infantile e che ti indignerà ancora di più. Avrò la debolezza di vantarmi che un'altra ascoltatrice invece mi ha dato ragione. Alessandra. Dice, mi è piaciuta l'autenticità con cui hai risposto. Vedi, in una parola c'era tutto. La guardiana del faro. Al giorno d'oggi abbiamo una certa dimestichezza con l'idea che prostitute di ogni genere possano facilmente ottenere fama e ricchezza. Ma verso la fine del XIX secolo, nell'epoca che in Francia venne chiamata la Belle Époque, una cerchia esclusiva di cortigiane diventò per un breve lasso di tempo l'insieme di donne più celebri e potenti nella lunga storia della prostituzione. C'era Emilienne d'Alençon, che si considerava un'attrice, ma era più nota come la donna che aveva quasi mandato in rovina il re Leopoldo II del Belgio. C'era Liane de Pougy, che quando l'amante del momento le mostrò dei gioielli del valore di 1,5 milioni di franchi, restò paralizzata dall'indecisione, costringendola a comprarle l'intera collezione. Poco tempo dopo si fece suora. C'era la bella Otero, ballerina spagnola, suscitatrice di suicidi e amante di almeno 6 teste coronate d'Europa. I suoi seni servirono come modello per le cupole del nuovo Carlton Hotel a Cannes. E c'era Léa de Longval, nata Leone Valon, invidiata da molte per essere la più bella di tutte. Il buon senso le permise di scongiurare il pericolo più scabroso per chi praticava la sua professione, cioè innamorarsi. Quello che abbiamo sentito è l'inizio del film Cherie di Stephen Frears, tratto dal romanzo di Colette, con Michelle Pfeiffer nella parte di Lea e Rupert Friend nella parte di Cherie. Questo libro molto famoso e molto letto è la storia di un amore, anzi la storia di un lutto d'amore fra Lea e Cherie. Lui è un ragazzo, lei una donna matura. Non esiste ancora la chirurgia estetica, chi ha le rughe se le tiene, e se è una cortigiana a invecchiare si trova fuori dal gioco. Lea però è fortunata. Mentre altre sue colleghe negli anni sono diventate delle botti col doppio mento o degli spaventapasseri con dei colli da tacchino dai quali pendono le collane guadagnate quando furono belle, ha mantenuto intatte bellezza ed eleganza, e in special modo la grazia, ovvero Lea non ha contratto nessuna delle volgarità del mestiere. Cherie è figlio di una sua antica amica nemica, Charlotte Pelou, tutto il contrario di Lea. Charlotte è straripante, sguaiata, maligna. Invece suo figlio Cherie è un capolavoro di bellezza, è il sogno erotico di tutta Parigi, donne e uomini. E a 19 anni è già stufo di tutto. È un ragazzo maleducato, viziato, duro e annoiato dalle donne che se lo contendono. Eppure essendo il più bello, quando ride diventa brutto. Cherie, il ragazzo che non sa ridere, che ha dentro una rabbia pigra, alla quale per troppa pigrizia e per ignoranza non sa dare un nome, né una forma che non sia quella banale della sopraffazione in nome della sua bellezza. Cherie è abituato che chiunque si inchini ad essa. È interessante scoprire nel libro di Colette come nella Parigi d'inizio Novecento le ragazze lancino per la strada dei complimenti ai bei giovani, e quando passa Cherie col suo passo alato, questo è il libro, e quando passa Cherie col suo passo alato è salutato dall'estasi di tre sartine che camminano a braccetto e gli gridano dietro: «Ah, mamma mia, ma non è possibile, è finto! Proviamo a toccarlo!» Charlotte, la madre, è stata una impareggiabile spennatrice dei suoi clienti. Vive in una villa sontuosa, quasi un castello. Da giovane era così occupata dei suoi commerci che ha trascurato il bambino, e a lui è stata molto più vicina Lea, che lui chiamava Nunun, la sua bella madrina, che lo ha consolato, lo ha curato quando stava male e che lui stima tanto quanto disprezza sua madre. Una madre che detesta, ma con una specie di compiacimento, perché lui sa di appartenere a quel mondo e che anche il suo patrimonio personale è frutto del lavoro di lei. Ma ecco come Colette descrive l'infanzia di Cherie. Lea ricordava Cherie bambino, meraviglia dei lunghi boccoli. Cherie crebbe, ora dimenticato, ora adorato, tra camerieri ossigenate e lunghi domestici sardonici. Nessuna miss, nessuna Fräulein fu mai vista accanto a lui, preservato a son di strida da Charlotte, da quelle streghe. Charlotte Pelou, donna d'altri tempi, diceva amichevolmente il vecchio, esausto, moribondo e indistruttibile barone di Barthélemy. Charlotte Pelou, io saluto in voi l'unica donna di facili costumi che abbia avuto il coraggio di allevare suo figlio da figlio di Baldracca. Donna d'altri tempi, voi non leggete, non viaggiate, vi interessate soltanto dei fatti altrui e fate allevare vostro figlio dalla servitù, che limpidezza. Cherie conobbe quindi tutte le gioie di un'infanzia scostumata. Raccolse i pettegolezzi triviali dei domestici, condivise le cene notturne clandestine della cucina, conobbe le indigestioni di caramelle e i crampi di fame. Quando si scordavano della sua cena, si annoiò, seminudo e raffreddato, alle feste dei fiori dove Charlotte Pelou lo esibiva seduto tra rose bagnate. Ma gli capitò di divertirsi immensamente a 12 anni in una bisca clandestina dove una signora americana lo fece giocare con manciate di Luigi d'oro, chiamandolo piccolo capolavoro. A 14 anni Cherie assaggiò il collegio. Non lo accettò, ribelle com'era ad ogni costrizione, e scappò. Madame Pelou non solo trovò la forza di incarcerarlo di nuovo, ma davanti ai pianti e le ingiurie di suo figlio fuggì, turandosi le orecchie. Lasciò Parigi, accompagnata da un uomo giovane ma di pochi scrupoli, per tornare 2 anni dopo, sola. Fu la sua ultima scappatella. trovò Chéri cresciuto troppo in fretta, smunto, vestito come un allenatore di cavalli e più sboccato che mai. Strappò Chéri all'internato. Lui smise del tutto di studiare. Volle cavalli, carrozze e gioielli. Pretese cospicui appannaggi mensili. E quando sua madre cominciò a strapparsi i capelli strillando come un'aquila, la zittì. «Madame Pelù, non ve la prendete. La tua grana è anche la mia. Gli amici si trattano a cene e champagne». E poi la rassicura dicendo «Stai tranquilla, che non spenderò mai per le donne». E manterrà la promessa. Chéri cominciò a comprare automobili e vendette i cavalli. Non disdegnava di spulciare i libri dei conti dei due autisti. Sui 17 anni prese abitudini da vecchietto, da possidente pignolo. Più di una volta Madame Pelù lo incontrò sulle scale della cantina, dove era sceso, per contare le bottiglie nei loro scomparti. Léa era un'amica troppo intima, una sorta di madrina indulgente alla quale Chéri dava del tu. «È vero?» gli domandava Léa, «che stanotte ti hanno visto al bar con la vecchia Lili seduto sulle sue ginocchia?» «Sulle sue ginocchia», rispondeva Chéri, sguaiato, «ma se non ce l'ha più da un pezzo le ginocchia, sono affogate nel grasso». Chéri, con la sua vita di stravizi e senza gioia, ha un colorito verde, è magro, sfibrato, e Léa gli propone di partire con lei per la Normandia e gli promette una dieta sana e niente donne. E lui allora, repentinamente, mentre i rapporti sono sempre stati camerateschi, familiari, la bacia. «Niente donne», esclamò Chéri come in sogno. «Allora baciami!» Stupita, Léa non si mosse. «Baciami», ho detto. Parlava da padrone, con le sopracciglia aggrottate. E Léa, che il bagliore di quegli occhi riaperti all'improvviso metteva di saggio come una lampada accesa bruscamente, alzò le spalle e depose un bacio sulla fronte vicinissima. Lui la tirò a sé. Léa scosse la testa, ma solo fino all'istante in cui le loro bocche si toccarono. Allora rimase completamente immobili. Dopo trasse un gran respiro e si sistemò i capelli, che non erano spettinati. Poi si voltò, un po' pallida, con gli occhi incupiti, e disse in tono scherzoso: «Di un po', credi che nei miei ricordi una bocca ben fatta sia una rarità?» Gli sorrideva dall'alto, sicura di sé, ma non sapeva che qualcosa indugiava sul suo viso, una sorta di palpito lievissimo, di dolore seducente. E allora decidono che vanno in Normandia. E lui, perché nel cuore di questo giovane viveur si annida anche un gretto contabile, le dice: «Pagherò io la benzina, ma al mantenimento dell'autista ci penserai tu». E poi si baciano di nuovo. Andò a lui per baciarlo, con uno slancio di rancore, di egoismo e dei pensieri di punizione. Lo baciò tanto che si sciolsero dall'abbraccio ebbri, storditi, senza fiato, tremanti come avessero fatto a botte. Chéri le tese le braccia, gettò indietro una testa ferita e scoprì tra le ciglia la doppia scintilla di due lacrime, mormorando parole, lamenti, una cantilena animalesca e amorosa in cui lei distingueva dei Léa, dei cara, dei vieni, dei non ti lascio più. Una cantilena che ascoltava, china e piena di ansia, come se senza volerlo gli avesse fatto molto male. Appunto, pagherò io la benzina, ma al mantenimento dell'autista ci penserai tu. Perché avaro, Chéri, questo ragazzo decadente portato all'autodistruzione, è molto attento al soldo. E lui, come dicevo prima, c'è un contabile puntiglioso e meschino. E in tutta la durata della loro lunga relazione, che è una grande storia d'amore, tuttavia lui starà molto attento a non spendere un centesimo. E loro vanno in Normandia e lei lo fa tornare in salute con cibi sani, in movimento, e anzi, per irrobustirlo, gli fa prendere lezioni di boxe dal pugile patron, al quale confida: «Di pupi cattivi ne ho avuti di più divertenti di Chéri, e anche di più gentili e di più intelligenti, ma uno come lui non l'ho mai avuto». E patron dice a Chéri, mentre lo allena: «Non sarete mai un pugile, perché siete cattivo». E gli chiede: «Ma che gusto ci provate a essere cattivo?» E Chéri: «Mi consola, tu non puoi capire». Il vero fascino di Chéri è il mistero che si nasconde dietro la sua scontentezza. Lui e Léa stanno meravigliosamente in Normandia, tornano dopo un paio di mesi in cui non si sono separati un istante. Lei riconquista casa sua, lui torna dalla madre, ma la sera stessa Chéri corre da Léa. Sono persone di mondo e non se lo direbbero mai apertamente, ma sono innamorati e non riescono a stare un momento uno senza l'altro. La guardiana del faro. Continua a raccontare e a leggere Chérie di Colette, la storia di questo amore con una grande differenza d'età tra il ragazzo Chérie, figlio di cortigiana, e Léa, bellissima cortigiana. E così passano 6 anni. 6 anni di amore e di schermaglia, simulando la leggerezza. Poi Madame Pelou, la mamma, l'orrenda Charlotte, decide che è ora che lui si sistemi e che sposi una buona dote. E lui ci sta. Si fidanza con la figlia di un'altra gelida cortigiana, una ragazzina di 18 anni, Edmé, che per lui è un fantasma. Invece lei è innamorata di questo ragazzo scontroso. Alla notizia del matrimonio, Léa deve fare appello a tutta l'arte della dissimulazione che ha imparato nel suo mestiere. Ma il colpo è tremendo. Il libro comincia così, quando loro sono a letto e lui deve andare a incontrare la sposa e, come sempre fa, gioca con la collana di perle di lei e con una petulanza un po' da bambino, un po' da marchetta, le dice: «Léa, regalami la tua collana di perle, me la regali questa collana?» «Smettila, Chérie, ci hai giocato abbastanza. Hai paura che te la rubi?» «No, però se te la regalassi saresti capace di accettarla». Ed ecco che Colette ci presenta Léa. A 49 anni, Léonie Vallon, detta Léa de Lonval, concludeva una fortunata carriera di cortigiana danarosa e di ragazza semplice a cui la vita aveva risparmiato le catastrofi seducenti e i nobili dolori. La sua giovinezza di bionda adulata, poi la sua maturità di ricca mantenuta, non avevano accettato né lo scandalo increscioso né l'equivoco. Le sue coetanee non le perdonavano la salute imperturbabile. E le donne giovani, cui la moda del 1912 già metteva in risalto il dorso e il ventre, schernivano il seno generoso di Léa. Le une e le altre, indistintamente, le invidiavano Chérie. «Ma santo cielo», diceva Léa, «se lo prendono pure, non lo tengo mica legato». E qui mentiva a metà. Orgogliosa di una relazione, a volte diceva adozione, per amor di sincerità, che durava da 6 anni. Dare moglie a Chérie. Non è possibile. Non è umano. Affidare una fanciulla a Chérie. Tanto varrebbe gettare una cerbiatta ai cani. Questa gente non sa cos'è Chérie. Tutti e due ci tengono più che mai, adesso che lui si sposa, a tenere un tono leggero, ma sono terrorizzati dalla separazione. Lui vuol darle un ultimo bacio e lei lo respinge. «No, va, l'uno a meno un quarto! Va, e che non ti riveda mai più!» «Mai più? Mai più!» gli gridò ridendo con una tenerezza impetuosa. E lui è seccato, perché la trova troppo ragionevole, gli sembra che non se la prenda abbastanza. Lei finora non gli ha mai parlato di soldi, ma adesso fa un conto esplicito. Gli parla di soldi invece di parlare del suo dolore. «Senti un po'», dice lei a Chérie, «quanto hai messo da parte delle tue rendite da 5 anni in qua? 50.000 all'anno? Su, avanti. 60? 70?» Chérie si sedette sul tappeto e rovesciò la testa sulle ginocchia di Léa. «Non li valgo, forse?» In certi momenti, le fattezze di quell'amante che disprezzava un poco le ispiravano una sorta di rispetto. Essere belli fino a questo punto è una forma di nobiltà, pensava. «Dimmi un po', e la ragazza che ne pensa?» cioè la futura moglie. «Com'è con te?» «Mi ama, mi ammira, non dice niente». «E tu come sei con lei?» «Non sono», rispose con semplicità. «Che bei duetti d'amore», disse Léa, pensierosa. «E lui... mi pare che ti preoccupi molto per lei. E a te non pensi in questo cataclisma?» Léa guardò Chérie con uno stupore che la ringiovaniva. E lui insiste. «Sei tu, Léa, la vittima. Tu, il personaggio simpatico di questa storia, visto che io ti pianto». «Ma tesoro, io non ho intenzione di cambiare nulla della mia esistenza. Non sei contento? Cosa vorresti? Che tornassi in Normandia a nascondere il mio dolore? Che dimagrissi? Che non mi tingessi più i capelli? Che Madame Pelou accorresse al mio capezzale e dicesse: l'ombra di se stessa, l'ombra di se stessa, quella poveretta invecchiata di 100 anni. È questo che vorresti?» «Sì», gridò lui. «Poverino, ma di questo passo avrei già dovuto morire 4 o 5 volte, perdere un giovane amante, cambiare un pupo cattivo», e aggiunse più piano, leggera. ci sono abituata. E lui, questo si sa, disse lui aspramente, e me ne frego, sì, proprio me ne strafrego di non essere stato il tuo primo amante. Quello che avrei voluto, o piuttosto quello che sarebbe stato decoroso, pulito, è essere l'ultimo. E poi c'è solo una frase rivelatrice quando lui parla del viaggio di nozze che farà, parla degli alberghi, dei luoghi, e lei dice, ma lei, c'è lei? Certo che c'è lei, non molto, ma c'è, e non ci sono più io. E allora lui si commuove e dice, tu ci sarai sempre. E poi ha paura di essere stato troppo sentimentale, aggiunge subito, appena avrò bisogno di un favore. Ridono. Allora, c'è il matrimonio, gli sposi partono in viaggio di nozze e alle A restano le noiose partite a carte a casa della madre di lui, la malvagia Charlotte, che non le risparmia niente, la ferisce apposta parlando entusiasta dei due giovani sposi, col coro delle amiche, e qui Colette ci presenta queste vecchie mondane. Sedute a un tavolo da gioco, la baronessa della Berche e Madame Aldonza giocavano a piquet. Madame Aldonza, una vecchissima ballerina dalle gambe fasciate, soffriva di reumatismi deformanti e aveva la parrucca di un nero laccato messa di traverso. Di fronte a lei, sovrastandola, torreggiava la baronessa della Berche, con le sue inflessibili spalle da curato di campagna e il suo faccione che la vecchiaia rendeva virile da far paura. Era tutta peli nelle orecchie, cespugli nel naso e sulle labbra, falangi villose. Non faceva che augurare ogni bene e celava una crudeltà sfrenata. E poi mentre sono lì, lei si allontana in giardino, non ne può più di queste vecchie così limitate e che vivono di ricordi. Aspira il profumo di una rosa, pensa a Cherie e in quel momento sente un grido. Sono arrivati gli sposini! Ma gli sposini non sono Cherie e sua moglie Edmé, no, sono altri due. Sono la vecchia Lili, la puttana più sfasciata di Parigi. Lei 70 anni e lui 22. Questo giovane principe di Cheste, una faccia da scemo, che fanno i teneri pubblicamente e che Lea guarda con orrore perché le sembrano la più bassa caricatura di lei e di Cherie. E c'è la impietosa descrizione che lei fa di Lili. Una settantina d'anni, una pinguedine ed eunuco stretto nel busto. La vecchia Lili seguiva la moda e scandalosamente. Una gonna a righe bianche e blu brillante le fasciava la parte inferiore del corpo. Un piccolo Spencer blu si spalancava sul petto nudo, dalla pelle grinzosa di tacchino coriaceo. Una volpe argentata lasciava scorgere il collo nudo a vaso da fiori. Un collo largo come un ventre che aveva risucchiato il mento. Spaventoso, pensò Lea. Non riusciva a staccare lo sguardo da certi dettagli particolarmente sinistri. Allora arriva Lili, allegrissima, e dice al ragazzino, Guido, passione mia, hai riconosciuto Madame de Lonval? Cioè Lea, non riconoscerla troppo o ti cavo gli occhi? E mentre sta lì, a casa di Charlotte, madre di Cherie, e soffoca, a Lea viene l'idea geniale di inventarsi un nuovo amante, e che sta andando in fuga con lui, per liberarsi un po' di loro e un po' del suo dolore, lasciando Parigi, e quindi scappa da quella atroce riunione. Lea si liberò di tutte quelle zampe, diede uno schiaffetto alle ossa guantate che la trattenevano e fuggì, mondanamente impeccabile, ridente, come se niente fosse. Però quando è sola è tutta un'altra cosa. L'assenza del suo ragazzo la rattrista a morte e si sveglia in piena notte gridando Cherie. È sbalordita da questo dolore, è senza difese. Lei, l'avventuriera, la cortigiana, si è innamorata senza riparo. Si alza, non può dormire, si sentiva sospettosa, piena di diffidenza nei confronti di un nemico che non conosceva, il dolore. 30 anni di vita facile, gradevole, spesso amorosa, a volte rapace, le erano caduti dalle spalle lasciandola, a quasi 50 anni, giovane e come nuda. Passano i giorni, è il 26 ottobre, un mese da che Cherie si è sposato. Non pensava mai che Edmé si era sposata. Come Cherie, non annoverava mai fra i vivi quella giovane ombra di donna. E così scrive questo biglietto fintamente spensierato a Charlotte, soppesando e limando ogni parola per ingelosire Cherie perché sa che la madre glielo mostrerà. Mia cara Charlotte, spero che non me ne vorrai se parto senza salutarti e senza svelarti il mio piccolo segreto. Sono soltanto una pazza. Bah, la vita è breve. Che almeno sia bella. Salutami il tuo ragazzo quando sarà di ritorno. La tua incorreggibile Lea. E parte consultando la cameriera per la sua finta fuga d'amore, per piangere in pace senza che nessuno veda la sua faccia disperata. Intanto torna Cherie, dopo aver pensato sempre a lei ed essersi annoiato a morte in viaggio di nozze, e la prima cosa che fa è leggere il biglietto, e il colpo va a segno. Lui è devastato dalla gelosia. Passa continuamente sotto la casa di Léa per vedere se è tornata. Cerca di corrompere il cameriere per sapere dov'è e non riesce a sapere niente. Intanto Edmé, la sua giovane sposa, è gelosa. E c'è una scena tra loro perché lui si lagna che è scomparsa una lettera che lui conosce a memoria. Non è trovato niente, non è mica preso una lettera che cominciava «Ma no, non mi annoio, bisognerebbe sempre lasciarsi per 8 giorni al mese». E già la gelosia divampa perché lui ricorda questa lettera parola per parola. E lei esplode. Lei, che finora è stata molto sottomessa, gli dice «Una lettera come quella non c'è neanche bisogno che ti chieda se era di Léa». E Cherie, a sentirla nominare, prende un'aria beata. Cherie sembrava ascoltare l'eco del nome. Tutta la giovane forza innamorata e mal disciplinata di Edmé scoppiò in una bordata di grida, di lacrime, di mani che si torcevano. «Vattene, ti odio. Non mi hai mai amata. Pensi soltanto a quella vecchia. Hai dei gusti da malato, da degenerato, da... Tu non mi ami. Ma perché mi hai sposata?» Cherie contemplava con stupore i movimenti scomposti di quel collo tenero e flessuoso. Le mani avvinte l'una all'altra. Chi mai aveva pianto davanti a lui, per lui? Nessuno. Sua madre? Léa? No. Quante lacrime sul volto di quella giovane donna che si dibatteva davanti a lui. E lui è per un istante sedotto da questa novità. Oh, finalmente una donna che in semplicità piange per lui. Sappiamo che Léa piange, ma di nascosto. E allora la consola, l'abbraccia, però dura pochissimo. Cherie continuava a carezzargli i capelli, ma aveva superato il momento cocente della propria emozione e si annoiava. Sempre questa poco affascinante caratteristica di Cherie, si annoia. E allora dice: «Ma che cosa hai con me? Non esco mai senza di te. Cosa vuoi? Ho un amante, ho una camera per conto mio. Sono o non sono brava a fare l'amore?» Lei esitò e poi: «Quello lo chiami amore?» E lui là si arrabbia a morte, ha messo in dubbio le sue prestazioni. «Questa», disse freddamente, «è una gaffe. Senti, cocca, non bisogna toccare la mannaia, cioè offendere un uomo. Nei suoi favori, se così posso dire. Tu mi hai offeso nei doni che ti faccio. Mi hai offeso nei miei favori. Parli come una cocotte», balbettò lei, ed è vero. Lui è profondamente calato nel suo ruolo di cocotte. Dimentica subito quel breve attimo di commozione con la moglie ed è talmente fisso nel dolore per la mancanza di Léa, specialmente di una Léa assente che lui si immagina in giro a spassarsela con altri amanti, che lascia la casa, lascia la moglie e non si fa più vedere. Per settimane e settimane fa una vita di bevute con un parassita che paga perché lo ascolti quando parla di Léa. La guardiana del faro. Riprendo il racconto del romanzo Cherie di Colette, la storia tra il viziato, bellissimo ragazzino Cherie e Léa, una matura e splendida cortigiana. Durante la sua fuga da casa, Cherie non è pentito di aver lasciato la moglie, perché per lui è contro natura vivere forzatamente con quella ragazza. Un giorno nel grill room del Morris, la comparsa di un vestito verde col collo di cincillà che somigliava a un vestito di Edmé aveva dipinto sul viso di Cherie tutti i sintomi del terrore più abietto. L'amico gli dice: «Ma perché non divorzi? Sarebbe tutto così semplice». «Certo, questo sistemerebbe tutto», riconobbe Cherie, lo scapestrato. Ma un altro Cherie, singolarmente timorato, si ribellava. «Non son cose da farsi. È roba mia quella. La moglie, la casa, gli anelli. È tutta roba mia». Finora la bellezza di Cherie l'abbiamo sempre veduta attraverso gli occhi delle donne. E ora ecco come lo vede il suo parassita, il Desmond, questo giovane che è brutto invece. In piedi alle 8, sbarbato, calzato e nervoso, Cherie scrollò Desmond che dormiva, livido, gonfio nel sonno come un annegato. «Desmond! Ehi, Desmond! Sveglia! Sveglia! Sei troppo brutto quando dormi!» Chérie, vestito di blu, patetico e splendido, pallido sotto un velo di talco steso con maestria, c'erano ancora momenti in cui Desmond soffriva, nella sua bruttezza affettata, della bellezza di Chérie. «Che altro succede?» si domandava mentre sbadigliava. «Questo imbecille è anche più bello di ieri, soprattutto quelle ciglia». Desmond notò anche che quel mattino la sdegnosa bocca arcuata era socchiusa, umida, rifiorita, un po' ansante, come dopo una voluttà frettolosa. E poi passa le serate con un personaggio, con una donna così anonima che non ha un nome, che chiama soltanto l'amica, una fumatrice di oppio. Passa le serate con lei, senza fumare oppio e senza neanche sfiorarla questo rudere, solo perché ha delle perle false che le ricordano quelle vere di Léa. Intanto, in questa finta debauche, perché in verità sta soltanto fuori di casa e beve, Chérie continua a passare sotto la casa di Léa e un giorno vede che Léa è tornata. Ma non la vede nella casa, la vediamo noi attraverso il racconto di Colette e la vediamo ancora tutta posseduta dal suo dolore e della sua nostalgia, spaesata in casa sua. E cercava intorno a sé, come avrebbe cercato un mobile scomparso, la sua antica vitalità, la sua prontezza nel percorrere quella dimora accogliente. E si sente curva e stanca. Non ha più nessuna voglia di vestirsi e di truccarsi. Però a quel punto viene a sapere che Chérie ha lasciato la moglie, che da molto tempo dorme fuori, e allora si accende tutta di speranza. Progettò delle visite in sartoria e una voglia repentina ad essere bella la raddrizzò. E appena Chérie vede che lei è tornata, invece di andare da lei, corre dalla moglie, torna a casa, perché solo il fatto che Léa sia ancora a Parigi lo fa sentire capace di sopportare tutto, anche la moglie. E la maligna Charlotte la va a trovare, dice che l'ha mandata a Chérie per indagare su questo nuovo amante e con i suoi modi da vecchia mezzana le dice: guarda che se vuoi la mia sincera opinione ti basterebbe un gesto per riprendertelo. E lei risponde gelidamente: non voglio la tua sincera opinione. Però, senza volerlo, la speranza ormai ha preso fuoco. «Ah, Chérie», sospirò, ma non era più l'invocazione rauca e famelica dell'anno prima. Né le lacrime, né quella ribellione del corpo intero che soffre e insorge quando un male dello spirito lo vuole annichilire. «Povero Chérie, è buffo pensare che tu, perdendo la tua vecchia amante ormai logora, e io, perdendo il mio giovane amico scandaloso, abbiamo perso ciò che di più onorevole possedevamo in questo mondo». E in quel momento sente un rumore alla porta. Qualcuno che vuole entrare di prepotenza, invano fermato dalla cameriera. E Chérie, emozionatissimo, irrompe nella sua camera. Lei lì per lì fa la cortigiana, fa la dura, si difende. Lascia che lui impazzisca di gelosia vedendo un anello con un magnifico zaffiro che in verità si è comprato da sola. Ma lui lo crede il pegno di questo nuovo amante. Ma poi non regge, non resiste. E c'è una bellissima notte d'amore fra loro, la più bella. E per la prima volta dicono la parola amore, dopo che però l'han detta per anni con ogni gesto. E lei gli confessa che non c'è nessuno, che lei non potrebbe, che lo ama troppo. E lui piange. Lei lo chiama bestiaccia, demonietto senza cuore, mascalzone. Chérie levò verso di lei uno sguardo di gratitudine. «Sì, sgridami!» «Ah, Nunun!» «Léa, mi amavi allora?» «Sì, Nunun!» E lei allora si arrende. Accetta questa felicità e pensa che quanto durerà intanto. È troppo assurdo che loro si separino con questo amore così vivo, e pensa che loro due devono partire per vivere il loro amore. E quindi al mattino lei subito consulta gli orari dei treni, ma il mattino è diverso. Lui, facendo finta di dormire, la guarda senza trucco e il suo sguardo è impietoso. Mentre lei lo crede addormentato, lui la spia e vede una vecchia. Anche se non lo è ancora, ma vede tutti i segni della decadenza. La vede ancora senza cipria, un rado tortiglione di capelli sulla nuca, il doppio mento e il collo devastato si offriva imprudente allo sguardo invisibile. E allora lui, quando si accorge che lei vuole partire, che lei l'ha presa sul serio, che quando lui ha detto «io sono tornato», ha pensato che sia tornato davvero. E allora usa un tono molto duro, l'accusa di averlo fatto restare bambino, occupandosi troppo di lui, impedendogli di crescere. Lei allora dice una frase sgradevole sulla giovane moglie. E lei per una volta, tanta nobiltà, per una volta dice quello che pensa. Ah, vuoi camminare da solo? Cammina, ne vedrai delle belle, con una che è figlia di Marie Lor, cioè di questa mondana spietata. Ha delle braccia che non esistono e il sedere piatto, ma questo non ti proibisco. La afferrò per le braccia, ma lei si alzò, si divincolò con veemenza e scoppiò in una risata rauca. Ma certo, ti proibisco di dire una parola contro mia moglie, vero? No, ti proibisco, hai capito? Ti proibisco di rovinarmi la mia Nunun. È così che deve parlare Nunun? Siamo arrivati ai piccoli insulti meschini, tipo mia madre? Lo so io come deve parlare Nunun. Non ho dimenticato il giorno in cui mi dicevi, prima che sposassi quella ragazza, non essere cattivo, cerca di non far soffrire. Questo è parlare, questa sei tu. Se dobbiamo lasciarci, vuoi per questo somigliare alle altre donne? Lei intravide l'astuzia sotto l'omaggio e si sedette, nascondendo il viso tra le mani. Se fossi stata così buona, avrei fatto di te un uomo invece di pensare soltanto al tuo piacere e alla mia felicità. Non avrei cercato di tenerti tutto per me. Guardami. Hai ragione. Per le qualità che ti mancano, suppongo di essere io la colpevole. Ma 30 anni di vita facile mi hanno resa molto vulnerabile. Quindi no, non ti ho mai parlato di un possibile futuro. Perdonami. Ti ho amato come se dovessimo morire da un momento all'altro. Ti ho portato nel mio cuore per così tanto tempo. Avevo dimenticato che un giorno avresti dovuto assumerti la tua parte di carico. Una giovane moglie. E magari anche dei figli. E così finirai per soffrire. Sentirai la mia mancanza e dovrai trovare dentro di te saggezza, equilibrio e tolleranza per non causare sofferenza agli altri. Sì, è così. Hai avuto un assaggio di giovinezza. Non ti appagherà mai, ma vorrai sempre tornare da lei per averne di più. È meglio che tu vada. Io ti amo, ma è troppo tardi. Quindi ora vestiti e esci da questa casa. Ecco, questa era Michelle Pfeiffer nel film, che lui se ne va, lei lo guarda andare via dalla finestra, vede un'esitazione e pensa che lui stia tornando indietro. Risale, risale, gridò lei alzando le braccia. Una vecchia ansimante ripete quel gesto nello specchio oblungo e Lea si domandò che cosa potesse avere in comune con quella pazza. Cherie tornò ad avviarsi verso la strada e uscì. Lea lasciò ricadere la tenda, ma ebbe il tempo di vedere che Cherie alzava la testa verso il cielo primaverile e i castagni carichi di fiori e camminava aspirando l'aria a pieni polmoni come un evaso. Così finisce Cherie. Capitane di Adiporto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.